Avete niente altro da fare? Buongiorno a tutti! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. E dunque la Fiorentina ha vinto a Bergamo 3-2, Fiorentina che è terza in classifica, quota 52 punti in una domenica che ha dato anche qualche verdetto interessante, soprattutto in coda, ad esempio pesantissima la vittoria del Genoa, altrettanto pesante la sconfitta dell'Udinese che è la quarta consecutiva e riporta i friulani dentro nella zona caldissima. Soliti errori arbitrali, tanti sparsi anche tra venerdì e sabato, e vedremo cosa succede questa sera, cosa succede domani. Oggi però è la domenica dei gladiatori. Io alleno la Roma, io non alleno solo Totti, e io scelgo in funzione del risultato della Roma, non in funzione della storia di un calciatore o di quello che è. Cioè lui ti può mettere la palla importante, però se gli chiedi poi alla squadra di pressare, per lui è più difficile andare a fare 30-40 metri per pressare un avversario. Allora se vai ad attaccare, poi gli altri ti fanno girare palla. Bisogna richiamare tutti a raschiare sul fondo del barile. Fino a quel momento lì non c'è spazio per sentimenti. Assoluto rispetto per quella che è la sua qualità, assoluto rispetto per tutto. Però a me servono risultati. Io non sto qua a dire voglio giocare, sto a disposizione, mi scade il contratto a giugno e valuterò qualsiasi cosa dovesse uscire. Mi dispiace, sto male io, sto male la gente che mi sta intorno. Avere un po' di, diciamo, rispetto per quello che ho dato a questa società, a questa squadra. Qual è il tuo rapporto con Spalletti? Sì, il rapporto buongiorno, buonasera. Speravo che tante cose lette sui giornali che me l'avesse detto in faccia, quello sì. Oggi non c'è spazio per le mezze misure, per i cerchiobottisti, per quelli che, non so, ha ragione Spalletti, ma Totti non ha torto. 800 24 00 24, noi siamo qui fino alle 19, prenotatevi al centralino 349 238 6666, sms, whatsapp. Saluto subito Michele Plastino, ciao Michele. Buongiorno a voi, buon pomeriggio. Oggi non c'è davvero spazio per le mezze misure, perché la vicenda è divisiva. Io ad esempio Io sto con Totti tutta la vita, perché non si tratta così un giocatore, non lo si tratta come un ragazzino, non lo si tratta come l'ultimo dei panchinari. Non lo si fa entrare a 5 minuti dalla fine della partita, non si fa con Totti quello che la Juve ha fatto con Del Piero. Io sto con Spalletti perché l'allenatore ha diritto di fare le scelte che vuole, e se la società mi consegna 6 attaccanti, Totti, benissimo, anni 39, può anche stare allora, in panchina. Allora gli parli chiaro e lo lascia a casa. Michele. Io sono il risultato decisivo adesso, perché io poi il cerchiobottista non lo sono stato mai. 2-1 vince Totti. Perché il capitano non si può toccare, questa è la ragione. Non si può toccare, ma in modo corretto. Non è questo il motivo. Tra l'altro, pensa, io di grande origine laziale, figurati, non è, c'ho ancora il purgato ancora, ma non è che... Sì. Non è quello il motivo. Il motivo è per la passione. Cioè, io ritengo che il tifoso di calcio abbia diritto alla passione, e con la passione abbia diritto a tante cose che a volte possono anche sembrare ingiuste. Una di queste però è nel codice non scritto, ma che esiste, nel rispetto di alcune bandiere. Totti ha veramente rifiutato alcune squadre. Totti è Roma, perché poi ne parlavo anche stamattina a Sky, non è Del Piero, perché la Juventus è nazionale, non è proprio la città, la squadra di Torino, è una squadra nazionale, e lui poi veniva dal Padova. Totti è cresciuto, è nato, cresciuto, e ora sta andando via, devo dire, nella Roma. Non si è mai fatto male scendendo le scale e non giocando a pallone. E aggiungo solo una cosa per far capire il mio pensiero, aggiungo Giggs. Allora, la gestione di Giggs nel finale a Manchester United mi sembra molto diversa dalla gestione di questo momento, e vi dico che per me la cosa di Totti essenziale in quell'intervista è perché non mi dicono le cose in bravo, sì, esatto, però posso dire una cosa, cioè, io posso essere anche d'accordo, ma mi pare, adesso da quant'è Spalletti a Roma? Un mese e mezzo oramai. A me pare che fosse chiarissimo il pensiero di Spalletti, cioè al di là delle scelte, in che lingua doveva parlare Spalletti per dire che in questo momento Totti non è funzionale al calcio della Roma e quindi deve prendersi i ritagli di spazio proprio perché c'è il rispetto per la figura che è Totti, giocava oggi? E perché per quello oggi? Che è stato, perché credo che dopo una partita come quella del Real Madrid in casa col Palermo Totti possa anche venire utile per un'oretta e poi magari uscire a metà del secondo tempo. È una logica di turnover, no, è un controsenso da calciatore, è un controsenso perché se lo fai giocare 5 minuti, se lo fai giocare 5 minuti vuol dire che ha 5 minuti nelle gambe, se tu ritieni che abbia 5 minuti, ma dipende anche che se partita lo fai è. Giocare, se lo fai giocare 5 minuti per umiliarlo, allora è un altro discorso. No, ma il problema io non vero... sono, guarda Michele, io non sono per garantire alle bandiere la pensione, perché no, ma neanch'io perché neanch'io. Basta parlarsi chiaro, cioè non, esatto, la Juventus con Del Piero non aveva nessun obbligo, il Milan con Maldini e con Baresi, con chi vuoi tu, non aveva nessun obbligo di garantire la minima alle sue bandiere. Però a me dà fastidio, mi ha dato fastidio con Del Piero quando Conte lo faceva scaldare, lo faceva entrare nel tempo di recupero, e mi dà fastidio con Francesco Totti, è solo una questione di campo. Sì, no, ma io in questo sono appunto perfettamente d'accordo, perché io non credo che questo mese e mezzo sia significativo, perché in questo mese e mezzo, allora mi dovete spiegare perché, adesso io non faccio il cinquepottista, ma chiaramente stimo come allenatore Spalletti, ma indipendentemente da questa storia, ma mi dovete spiegare per quale motivo nelle conferenze stampa, nelle interviste, lui faceva certe dichiarazioni nei confronti di Totti che non sembrerebbe avesse detto a lui, altrimenti Totti non se ne usciva così, io alleno la Roma, non alleno Totti, eccetera, eccetera, papapapa. È chiaro che io credo che potesse essere gestito in maniera diversa questa storia, nel colloquio vero tra i due. È ovvio che tutto parte da un presupposto. La società è con Spalletti e questo Totti lo capisce. C'è anche un altro presupposto. Adesso vi dico anche cosa ha detto Pallotta da Boston quando si è svegliato questa mattina. Quelli del Messaggero gli hanno telefonato e gli hanno detto: "Hey, Mr. James, what do you think about Totti?" E lui ha detto: quando Francesco parla di mancanza di rispetto non ho idea a cosa si riferisca. Chiaramente io rispetto Totti, mi incontrerò con lui, poi vedremo per dirsi che cosa... se soltanto per prendere il caffè o chissà cosa. Secondo me l'altro dato è la totale assenza della società, cioè qualcuno in un mese e mezzo poteva mettersi a un tavolo con Spalletti e Totti, annusando, vivendo a Trigoria, loro, non noi giornalisti, annusando che la cosa stava per scoccare. Sono sì, perché sì, era nell'aria, era nell'aria, era completamente nell'aria, quindi ci arrivavano le voci in questo senso, che lui stesse per scoppiare. E quindi se arrivavano a noi, arrivano pure dentro la società, però lì c'è da capire. Basta guardare il linguaggio del corpo, no? Basta guardare i palleggi con il bambino a Reggio Emilia, basta guardare lo scherzo in panchina a Pjanic, ma basta guardarlo negli occhi, bastava guardarlo in faccia. Infatti ti aggiungevo, considerate anche Sabatini, che aveva fatto intuire che anche lui andrà via, e quindi non c'è neanche quella posizione adesso dentro la società. Però questa l'abbiamo già sentita, Michele. Come? Questa l'abbiamo già sentita da quella Sabatini, di Sabatini che vado se ne via, va. Vado via. Abbiamo già sentito. Appunto, però a questo punto non c'è neanche quello. Cioè, Totti ha preso, ha parlato da solo. Sulla intempestività possiamo ovviamente discutere. Sì, e che apre anche a un altro tema. Aspetta Michele, abbiamo il traffico, 800240024, state già chiamando in tantissimi, prenotatevi perché poi diamo libero sfogo anche a voi, però vi leggo due messaggi che sono arrivati via WhatsApp al 349-238-6666. Uno dice: Totti non si discute, l'altro: Totti è una zavorra, 20 anni a libro paga per non aver mai vinto niente, guardatelo, cammina in campo ed è pure goffo. No, questo per dire che divide la questione. C'è il traffico, poi torniamo perché c'è l'altra questione. Giustamente Michele parlava della tempestività, forse pensando a Roma-Palermo. Io poi aggiungerò un altro carico da 90, perché Totti ha già in tasca un contratto da dirigente della Roma. E io non so se i futuri dirigenti parlano così. Traffico. Di che stiamo a parlare? Di che parliamo? Mo dica lei, di che volevo parlare? Tutti convocati. Tutti convocati. Intanto su Sky sta parlando Ventura, un altro dei monumenti picconati oggi, poi ne parliamo perché anche questo è uno dei lati di questa domenica, la domenica dei monumenti picconati, uno dei picconatori è Berlusconi ad esempio. 800 24 00 24, c'è chi ricorda che in Ferrari hanno lasciato a casa Montezemolo, c'è chi cita, ma l'abbiamo già fatto anche noi, il caso di Del Piero e Danielli. Totti con in tasca un contratto per 3 anni, tra l'altro mi risulta lautamente pagato da dirigente della Roma, quando lascerà il calcio giocato? Io mi chiedo, al di là del profondo imbarazzo, immagino, in questo momento di pallotta della dirigenza della Roma, Michele Plasino, Carlo Genta, se un futuro dirigente parla così, o se a questo punto va fatta una riflessione anche sul dopo Totti che tutti consideravamo scontato. Ma secondo me non ha senso. Allora, il contratto dirigente di Totti, così come il contratto di Totti, è stata un'eredità lasciata a pallotta dalla proprietà precedente, che si è trovata questo contratto. Io credo che un neopresidente, che un dirigente, un proprietario debba poter decidere con la sua testa se vuole un ex giocatore, una bandiera, eccetera, se è funzionale al suo progetto come dirigente oppure no. Quindi quella mi sembra una forzatura. Sì, ma Totti parlando così ieri sera, io non so, io ho questa sensazione, Michele, si tira fuori non solo dal ruolo di Totti giocatore agli sgoccioli, ma si tira fuori dalla Roma. Sì, penso che sia arrivato il momento dell'out. Vedi, a Roma ci sono 4 squadre ormai, la Lazio, Lotito contro Lotito, adesso qui ci sono Totti e Spalletti, 4 squadre invece di 2. Sì, anch'io credo che sia l'annuncio di un addio, dai, lo credo anch'io. Io mi devo scusare, sai perché? Perché sto entrando, se no c'è un motivo di ordine pubblico qui a Frosinone, per Frosinone Lazio, e mi stanno sollecitando. Dove gioca una delle due Lazio. Sì, una delle due, non si sa quale. Grazie Michele. Mi perdonate, sì. O ti perdoniamo o ti mandiamo sul balcone di Frosinone a vedere la partita. Grazie Michele Plastino. Ciao Michele. 800 24 00 24, sondaggio che abbiamo lanciato anche su Twitter, 54% sta con Spalletti, però non vogliamo mezze misure. Antonio da Bari, Paolo da Milano, cominciamo con Antonio da Bari. Antonio, eccoci. Salve. Sì, io tutti d'accordo, per Totti sono i grandi dell'Italia, come Cassano, i fantasisti, amiamo tutti i fantasisti, però a un certo punto arriva la Nagase, cioè voglio dire, in un calcio che diventa sempre più veloce, sempre più con pressing. Io sono d'accordo con Genta, che saluto. Ma tu non puoi essere d'accordo con tutti. No, però, le spiego. Sono d'accordo con Genta per il motivo, cioè umiliare all'ultimo minuto per entrare al là, sì, lì dovevano mettersi d'accordo. Quindi ha ragione Totti a dire, pretendo chiarezza punto, e rispetto. Sì, però Spalletti, a quel punto di vista sì, perché so che significa come un principiante preso, messo all'ultimo minuto così. La sostituzione però, per perdere tempo, metti un ragazzino, non metti Totti. Ma lì c'è, come dicevate voi prima, c'è di dietro una società che ormai manca, diciamo, manca per poter... e chiarire queste situazioni. Però Spalletti ha tutte le ragioni, ha la responsabilità però Antonio, mi stai tradendo la mission di questa puntata, O Totti o Spalletti. Vabbè, per te ha ragione Totti, Spalletti ha ragione, Spalletti ha ragione, Spalletti però ha ragione, Spalletti con un riguardo, diciamo, all'uomo gallo, diciamo, alla storia dell'uomo da quel punto di vista. Grazie Antonio. No, scusate, buonasera a Presidente. Tutti. Auguri, però parliamo dopo del Milan. I nostri accordi erano ben diversi. Ma addirittura state dando spazio ad ascoltatori romanisti. Ma è la notizia del giorno, Presidente. La notizia del giorno in realtà è una ricorrenza solenne, ma importantissima per le sorti del nostro paese. Il trentennale della mia presidenza, sì, in seno alla società, mi lasci parlare Capuano. Posso dire una cosa, Presidente? Mi sembra un po' arrabbiato. Assolutamente no. Seno alla società più vincente e titolata al mondo. Sì. E invece vedo che avete più a cuore notiziuole di scarso peso, perché a noi dei capitani della Roma francamente non ci interessa molto, con tutto il rispetto per il signor Totti. Sembra mia, quindi diciamo, però, un atteggiamento inopportuno, tipico dei comunisti ma e delle toghe rosse. Proprio adesso che stiamo vincendo a Roma. Ma non è vero. Dopo, e poi dopo a Radio 30 queste cose. Ma non cose, è Radio 30, siamo a Radio 24. 30 che è la nostra dopo, però, nuova però, emittente. Dopo, no, è no, è Radio 24. Comunisti, no, vergognati. Però presente, stia qui, comunisti. Sembra Mihajlovic, mi fate aspettare. Aspettate che sta aspettando un allenatore. E come sapete, no, non Mihajlovic. Questa è una mancanza di rispetto. Come sapete, gli allenatori devono parlare prima di Berlusconi, prima di questo ascoltatore della Roma. Non prima di Novellino, però. E prima io avevo anche compleanno. Che consenta, signor Berlusconi, consenta. Walter, buonasera. Ciao, saluto buonasera. Con piacere anche Walter, che mi ricorda piacevolezze. Certo, voglio dire, ma comunque, ecco, mi aspettavo almeno un inno, forza Mina. No, ma non lo facciamo l'inno del Mina, stiamo parlando di Totti, della Fiorentina. Ho piacere di sentire Novellino, ma un bel inno ci voleva. E anche un bel applauso, perdonate. Cribbio, comunisti. Ecco, l'applauso che abbiamo fatto. Oh, cosa pensa Walter Novellino della vicenda Totti-Spalletti? O Totti o Spalletti, oggi non ci sono mezze misure. No, io sarei un po' più per Totti, anche se... perché forse i 5 minuti dell'altra sera poteva un po' anche un po' più di rispetto, credo, no? Per un giocatore che ha dato tanto, che ha fatto tanto, al di là che l'allenatore non ha nessuna colpa, però ecco, il capitano, se deve finire nella maniera migliore, no? Nella maniera senza creare ulteriori però polemiche. Walter, questa è una questione societaria, l'allenatore insomma l'ha detto, è da un mese e mezzo che lo dice che Totti così non è funzionale, evidentemente ma non l'ha detto a lui, da capire, evidentemente eh? Non l'ha detto a lui, perché Totti ha detto certe cose, a me non sarebbe stato meglio me le avesse dette in faccia, evidentemente non c'è stata chiarezza tra i due, perché Totti è anche uno che comunicazione non... tra i due, esatto, ecco. Gli può dire, gli può dire: guarda, a me non servi, facciamo che non ti convoco, ti lascio in tribuna, non ti faccio giocare, però 5 minuti, però fallo giocare 5 minuti, i non, 5 non, minuti non mi sembrava il cambio fatto per perdere tempo, usi un altro giocatore. Questo vale per Totti e valeva anche per Del Piero a suo tempo. Walter, da allenatore, dopo le parole di ieri di Totti, dopo lo strappo di stamattina, queste sono situazioni che si possono ricucire? Ma sì, perché Totti è un ragazzo intelligente, Spalletti idem. Ecco, io forse non avrei mandato a casa, mi sarei tenuto tutto dentro, gli avrei parlato, che tra l'altro tra i due c'è anche una grande stima, mi ricordo. C'è stata di sicuro, c'è, e allora, ne riparleremo. Allora, ecco, io credo che c'è stato anche uno sbaglio di comunicazione, uno sbaglio di... Si dovevano parlare un attimino prima, essere un po' più chiari che... essere un po' più chiari prima, perché dispiace, perché Totti è un giocatore importante, Spalletti sta facendo molto bene, era credo una polemica inutile in questo punto, perché io credo che c'è stata una mancanza di comunicazione tra i due, che bastasse che si parlassero e sicuramente... Sì, penso che avrebbe ammesso che Totti volesse sentirsi dire le cose che forse Spalletti e la società volevano dirgli, stasera c'è Roma-Palermo. Ma forse Spalletti è stato chiaro. Ma più di così cosa doveva dire? L'abbiamo sentito anche prima, tra l'altro lo stralcio, un'intervista non in Italia, ad AS. Io non alleno Totti, io alleno tutti, rispetto la sua storia, però... in questo momento Totti non mi serve così. Dando un'occhiata invece a quello che è successo nel pomeriggio, dicevamo questa sera Roma-Palermo, capiremo poi se l'ambiente ha metabolizzato quello che sta succedendo, anche perché la Fiorentina continua a correre continua a fare gol. ha ritrovato anche il gol di Kalinic, non segnava dal 20 dicembre. Sì, ecco, io credo che la partita anche lei ha avuto un periodo così a livello fisico, credo, perché a livello di impostazione, a livello tattico non era una squadra che a me non mi dispiaceva. Credo che ecco, è riuscito a ritrovare quel ritmo che aveva prima, e Sosa sta facendo un grande lavoro, però devo dire che la Fiorentina ha dei giocatori di grande qualità, importanti, di grande qualità, interessanti come Kalinic, come Borja Cavallero, come Bernardeschi, insomma è una squadra che secondo me anche lì c'è molta polemica, anche lì ho sentito verso la presidenza, verso mi dispiace un po', perché la Fiorentina è una squadra che era partita con tantissime polemiche, non era una squadra da vertice, invece bisogna fare anche i complimenti a Sousa, perché Sousa ha fatto un grande lavoro e sta facendo un grande lavoro. Sì, la stiamo un po' sottovalutando l'impressione, noi continuiamo a pensare duello per il terzo posto, la Roma si è ripresa, magari si riprende l'Inter, cioè, la verità è che vittorie come quella di oggi a Bergamo sono vittorie che pesano doppio, triplo. Sono d'accordo, pesano triplo, perché l'Atalanta è una squadra che ti fa giocare poco, una squadra che sa chiudere, sa ripartire, e nonostante tutto è riuscita a fargli 2 gol. Non era una partita facile, ecco, e come non sarà facile la partita stasera come per la Roma. Io credo che la Fiorentina meriti il terzo posto, merita, perché sta facendo un grandissimo campionato. Sì, però tu hai ragione, Walter, quando dici che è inspiegabile il nervosismo che c'è a Firenze. Io l'ho sottolineato varie volte, quasi tutti i giorni, perché vengo sollecitato da tifosi della Fiorentina. Non è comprensibile il nervosismo che c'è a Firenze nei confronti di una squadra che era impronosticabile a questi livelli e in quella posizione di classifica a inizio campionato. Esatto. Ma sai cos'è? Che ai tifosi della Fiorentina, visto l'andamento del campionato, soprattutto nella prima parte, un campionato senza padrone, un campionato che sembrava molto equilibrato, loro hanno detto: ah, quest'anno può essere l'anno buono per vincere lo scudetto, e allora compriamo sti giocatori, allora Della Valle mettete mano al portafoglio. No, Valle l'ha messo in mano al portafoglio, infatti cioè, ma l'ha messo infatti io non lo capisco il nervosismo dei tifosi della Fiorentina, ti dico la verità. È la cosa che mi dispiace, perché all'inizio, se ci vogliamo ricordare le polemiche che c'era per la Fiorentina, che doveva lottare per... aveva preso un allenatore che non si conosceva, un allenatore inesperto. Ex Juventino. Bravissimo. invece la Fiorentina sta facendo un grandissimo campionato, come Napoli, insomma. Io credo che la Fiorentina merita un pochettino di attenzione. Più di attenzione da parte dei tifosi, sì, i suoi tifosi. Più attenzione e più considerazione. Grazie Walter. Ciao Walter, grazie. Ciao mister. Prego, e forza Mila, mi consenta. Ma non è il caso, perché già facciamo fatica. Ecco, questo è un atteggiamento intelligente di un grande giocatore, sì, che è anche una persona. Che è anche un grande allenatore, magari al posto di Mihajlovic si potrebbe... Aspettate. Aspetta, presidente. 800-24-0024, adesso abbiamo la pausa. Abbiamo Paolo da Milano che ci aspetta da almeno un quarto d'ora. Ecco, addirittura Paolo da Milano mi passa davanti. Ma questo ma lei ha parlato, ha parlato con tutti dei suoi 30 anni. Scommetto che non è un tifoso del Milano. È vigente il presidente. È un comunista. Comunista interista. Non ho sentito. Comunista interista o comunista veggente? Un veggente. Prego Paolo, prego. Perché sei comunista, Intervenire dopo il mister e dopo il presidente sarà durissima. Provaci, perché poi abbiamo la pausa, se no... Con Spalletti. Tu stai con Spalletti, bravo. Sì, tutta la vita. Perché Totti secondo me ha sbagliato 2 volte. La prima volta ieri, dando un'intervista da Scarnati e destabilizzando una Roma che con il nuovo tecnico sembrava riprendersi, 4 vittorie di fila. E questo è l'errore più grosso secondo me dell'ex capitano della Roma. Il secondo caso più difficile è provare a non lasciare il campo, forse fino a troppo tardi. Tirarla lunga. Ricordino personale, 3 anni fa, il primo anno di Garcia, con Totti, Immobile e Tevez, stravinsi il fantacalcio con 30 punti sulla seconda, perché Totti fece l'ultima stagione alla grandissima. E dopo l'anno scorso, secondo me, c'era da fare una riflessione, anche perché quest'anno, prima volta che lo mette in campo Garcia, lo fa entrare, non ricordo più con chi, dopo 3 minuti si infortunia. Sì, ha saltato 18 partite per infortunio in questa stagione, Paolo, fin qui, Francesco Totti, grazie. Intanto c'è un'immagine secondo me significativa, oggi i tifosi del Toro hanno messo uno striscione, 15 maggio 2016, l'avventura è finita, grazie mister. E sai chi si è presentato a parlare alle televisioni con Ventura? Cairo. Come a dire, ci sono qua io con il mio allenatore. 800 24 00 24. Il nostro sondaggio vede Spalletti. I nostri amici danno ragione più a Spalletti che a Totti, ma noi restiamo qui. Torniamo subito. Pubblico imbestialito. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia. Avere un po' di, diciamo, rispetto per quello che ho dato a questa società, a questa squadra. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore. Io non sto qua a dire voglio giocare, sto a disposizione. Mi scade il contratto a giugno e valuterò qualsiasi cosa dovesse uscire. Così non riesco a starci, perché mi dispiace, sto male io, sto male la gente che mi sta intorno. Può scoppiarti il cuore. Io sono convinto che lui possa dare un immenso aiuto sotto l'aspetto della qualità alla sua squadra, e lo deve fare da dentro il gruppo, non deve essere troppo distante. Però anch'io a volte ho contribuito a farlo essere un po' fuori dal gruppo. Sì, il rapporto buongiorno, buonasera. Però lo stimo sia come persona che come allenatore. Speravo che tante cose lette sui giornali che me le avesse dette in faccia, quello sì. Cerco sempre di tenere in considerazione tutti e tutto per il bene della Roma. Secondo me ci potrebbe essere il contesto perché Totti sia titolare domani. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo. Allora, al di là della musichetta triste, il sondaggio dice 58% di chi ci scrive su Twitter, di chi scrive, sta con Spalletti. 800 24 00 24. Pier, ciao. No, aspetta che controllo il mio, perché ne ho fatto uno anch'io. Cosa dice? 48% anche da me. Vedi. Guarda, 1247 voti, 48%. Ma è chiaro, ma è chiaro, si possono sempre fallarci, basta chiedere a Berlusconi, 48, no? Cioè, non ci beccano mai i sondaggi, non ci beccano mai. Aspetta che vi leggo alcuni dei messaggi che arrivano. Totti è come Nilla Pizzi che canta Sanremo, è ora che si faccia da parte. Poi ancora Guardiola sarebbe già fuori da 5 anni. Siamo solo noi che tiriamo lunghe queste cose. Poi è la solita storia, Totti è un componente produttivo di una società, quello che conta è quello che puoi dare a un'azienda, non quello che sei stato. Poi Emanuele, un grande giocatore si vede nella capacità di farsi da parte al momento opportuno. Un altro amico che scrive via WhatsApp: Totti è stato il problema di tutti i recenti allenatori della Roma, ci ha provato anche Luis Enrique ma è stato ridicolizzato. Poi c'è chi parla di debolezza caratteriale atavica di Totti, c'è chi dice da interista e sportivo i 6 minuti di Totti con Real sono stati una vergogna. Insomma, tu come la pensi, Pier? Io penso che tutti gli antitottiani del mondo oggi trovino materiale per poter parlare. Per dire che Totti ha sbagliato, e Totti per ha poter sbagliato, dire anche cose condivisibili, così come stronzate, come no, ho no, sentito, ma certo. Ma Totti, allora, razionalmente parlando, Totti ha sbagliato, nel senso che è ovvio che l'intervista è un errore. Ma ti dico la verità, lo so da ieri alle 14 in tempo reale che l'intervista era andata in questa maniera, che era un errore, che Totti si era impostato per farla, che chiaramente l'ufficio stampa della Roma, perché poi conta anche il contesto. Questa intervista è un'intervista fatta alla bravissima Donatella Scarnati, che chiaramente il capitano della Roma conosce molto bene, dentro Trigoria, quindi in un luogo dove il controllo da parte dell'ufficio comunicazione della Roma ovviamente dovrebbe essere totale. Poi il controllo non può essere censura, ci mancherebbe altro, però insomma, diciamo, non è un'intervista rubata in un bar o a casa sua, è un'intervista che avviene fisicamente a 50 metri dal luogo dove in contemporanea, Spalletti sì, sta parlando e sta dicendo che gioca, che gioca titolare, e questo mi sembra anche abbastanza un controsenso. No, non è un controsenso, è l'immagine della Roma oggi. È l'immagine della Roma oggi. Totti, Spalletti dice Totti non può giocare, può giocare 5 minuti, non è in condizione, e lo metti titolare col Palermo in una partita così importante, cos'è, per dimostrare che non è in condizione, che quindi allora Spalletti non dice che Totti non può giocare. Spalletti probabilmente, se non fosse successo questo casino, oggi avrebbe fatto giocare Totti, perché oggi è un tipo di partita, con tutto rispetto per il Palermo, adesso partita tra l'altro diventa anche più complicata dal punto di vista psicologico, però è una partita in casa con squadra di seconda fascia dove ci può stare tatticamente l'idea di cominciare di far un attacco un po' più pesante e quindi far giocare contemporaneamente Totti e Dzeko. Aspettate che coinvolgo un grande ex attaccante, Sandro Tovaglieri. Ciao Sandro. Ciao Cobra. Buonasera, ciao a tutti. Ciao. Allora, leggo un messaggio. Un capitano mette il bene della squadra davanti al proprio. Totti si è comportato da bambino capriccioso. Come la pensi tu? Ma guarda, vivendolo da qui, ti dico che è una situazione molto imbarazzante, perché nessuno se l'aspettava, anche se insomma qualche sintomo di nervosismo c'era. È indubbio che questo è un giocatore che ha fatto la storia della Roma, e io credo che lo scollore, che se debba finire un amore, non debba finire così, perché è stato un grande, ha dato tanto, però credo che le dichiarazioni che ha fatto ieri, credo che abbia sbagliato. Da amico, proprio perché gli voglio bene, lo conosco da 20 anni, le poteva dire tranquillamente dentro le quattro mura, quando arrivava Pallotta, si facevano una chiacchieratina e potevano risolvere il problema. Ma tu hai l'impressione che si senta un po' tradito, non solo da Spalletti, ma anche da Pallotta, dall'idea che il discorso sul futuro sia diventato prendiamo un caffè a marzo, poi vediamo. Totti l'ha detto in tutte le lingue, che vuole continuare a giocare. Lo conosco molto bene, lui gli spaccia molto non giocare, anche se c'ha 40 anni, vorrebbe giocare, però credo che nello stesso tempo, quando si arriva a una certa età, bisogna un attimino tranquillizzarsi e mettersi a disposizione della squadra e rendere per quello che tu puoi dare in questo momento. Lui è reduce anche da diversi infortuni, ogni partitella che ha giocato ha avuto sempre degli infortuni che non sono più gli infortuni che può avere un trentenne, perché magari l'infortunio ultimo in 10 giorni, 20 giorni, invece ci ha messo 4 mesi, quindi sentendosi un po' escluso, lui è un po' permaloso come ragazzo, un grandissimo ragazzo, simpatico, però vorrebbe non chiudere questa storia d'amore così, e quindi è caduto secondo me nel tranello di creare una situazione imbarazzante che non gli fa tutti, ma tutti i grandi campioni fanno fatica a capire quando è il momento di piantarla lì, perché ce ne sono tanti che hanno ballato una o due stagioni di troppo, e possiamo anche fare i nomi senza problemi, da Maldini a Shevchenko adesso ti faccio l'elenco se vuoi, però il discorso è, ma no, ce ne sono tanti, a Del Piero stesso ha ballato magari una stagione di troppo, però il fatto è che per una questione di rispetto il cambio a 5 minuti dalla fine, così come faceva, va il discorso che vale anche per Del Piero, così come faceva Conte con Del Piero, cioè per un giocatore così importante con la storia che ha, non è un trattamento che non è stato il massimo, è irrispettoso, Totti parla di rispetto, io credo si riferisca a quello, non al fatto di non giocare. Sì, Totti allora, non dice niente contro Spalletti, da un punto di vista, da quello che abbiamo appreso, perché poi l'intervista integrale la sentiremo dopo, però immagino che queste siano le parti più succose. Vai Cobra, poi parlo io, vai. Sì, dico, se la mancanza di rispetto si riferisce alla partita con Real Madrid, e lì giustifico un attimino la reazione, perché un grande campione a 3 minuti dalla fine sul 2-0, o lo fai giocare a 20 minuti dalla fine quando Real Madrid è passato in vantaggio, o altrimenti lo lasci in panchina serenamente, tanto lui l'ha accettata in questi mesi tranquillamente. Venire messo in campo a 3 minuti dalla fine, un ragazzo che è stato la storia della Roma, si è sentito tradito, se quello è il discorso, se poi ci sono se c'è altro, balla il contratto, ballano promesse, al di fuori insomma si fa fatica. Se c'è altro lo scopriremo. Grazie Sandro. Ciao Cobra. A voi. Ciao Cobra. Grazie Sandro, per il libro che credo stia vendendo tanto, Sì. 800 24 00 24, abbiamo il traffico, siamo anche un attimo in ritardo, poi Pier ti giro la domanda che era quella che ha fatto prima Carlo, ma stanno facendo anche da casa, se Totti davvero non abbia ballato un paio di stagioni di troppo, o se forse abbia ragione lui o no. Traffico. Il presidente Pallotta, tra qualche giorno lui sarà a Roma. Metteremo a tavolino, io dirò la mia, lui dirà la sua, sperando che tutti escano contenti. Mi aspetto correttezza. Tutti convocati. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Tutti convocati. Beh, mi sembra assolutamente il caso adesso che rientriate nei ranghi. No, non è il caso. Allora, eravamo visto che siete nella mia radio, Radio 30, la nuova radio di Mediaset, che ho comprato, sto comperando, definendo gli ultimi dettagli in questo momento, per il trentennale. Ci dà una notizia. Allora, adesso facciamo così, per favore, regia, mi mandate gentilmente l'inno del Milan. Ma e poi parliamo. Allora, forza. Ecco, questa è già un'entrata migliore. Però adesso facciamo adesso Pierluigi Pardo deve darci la risposta. Arriva Luca Telese. Ma non ha importanza, ma non me ne frega niente né di Telese né di Pardo. Allora, Genta. Allora, radio, ma questa è una mela marcia, non me la levo di torno. Ma allora, Carlo, allora adesso tu che sei l'unica persona seria qua dentro, mi chiedi, ma lo fai con grande enfasi, dici: oh, presidente, 30 anni alla squadra più titolata. Ma perché dobbiamo cerchi fare di enfatizzare? Ecco questa cosa. Presidente. No, ma questo è mosso. Ma sei mosso, no, oh, presidente. No, questo sembra Gaspar. Vabbè, allora lo fa Pardo. Lo fa Pardo, non è il mio mestiere. Senta, presidente, sì, presidente, 30 anni straordinari. Ci racconta qualcosa che non sappiamo. 30 anni. La ringrazio, mondo, presidente. Ecco, prego. Ma adesso stia zitto. No, però facciamo, la ringrazio, facciamo così, per questa presidente, lei ci pensa bene, guarda come la valorizziamo. Lei ci pensa bene. Beh, voglio ben vedere, siete nella mia radio, Radio 30. Ma non è vero. Non è vero. Lasciamo stare. Ma poi è due giorni che lei è ovunque, poi, televisioni, Capuano, facciamo un'altra cosa. Giornali. Allora, adesso Carlo è andato bene, ma anche possiamo parlare di Totti. Moderatamente. No, non ce ne interessa assolutamente. No, invece, Capuano, lei dovrebbe dirmi, ma quante sono le coppe, i trofei che ha vinto? Così. Però, Presidente, quante sono le coppe che lei, presidente più vincente della storia, ha vinto? Però, siccome sono tante, lei comincia a contarle. Uno, questo due, è vero. E noi invece parliamo un attimo di Totti. Questo è vero. Parliamo di Totti. Allora sono uno, c'è Telese, no, chiamiamolo Pier, allora ha ballato 4, qualche anno di troppo. 5. Ma tu pensi se dobbiamo fare sta cialtronata? Ha ballato un anno di troppo. Allora un conto è una valutazione su, perché il tema adesso sta diventando anche il condizionamento che Totti col suo talento, ma ovviamente anche con la sua, con il suo peso tra virgolette politico, ha fatto della Roma di questi anni. E questo è un tema che c'era fino a ieri. No, c'è ancora. C'è ancora. Sì. Poi è chiaro che adesso che a Roma non la va a vedere più nessuno, perché lo stadio è sempre mezzo vuoto, salvo l'altra sera. Beh, allora adesso è un po' più facile, visto che i tifosi, quelli caldi, sono in altre cose affaccendate. L'opinione pubblica c'è, sì, e si sente pure se lo stadio è mezzo vuoto, come purtroppo è successo spesso quest'anno. Io penso questo, che Totti abbia sbagliato certamente dichiarazioni. Certamente non ci sono dubbi, non ci sono discussioni, perché la stessa cosa poteva essere detta in maniera diversa. E penso che nella sua testa ci sia l'idea che, arrivata a 40 anni, dopo tutto quello che ha fatto, la libertà di avere uno sfogo, francamente, se la sia sentita addosso, e questo è il motivo per il quale ha deciso di fare così. Ma certamente quello che ha detto non gli è utile, nel senso che poi anche uno come lui, non è utile neanche alla Roma. Leggenda, assolutamente, anche la più grande leggenda della storia della Roma, con queste dichiarazioni, in questo momento sicuramente mette molti tifosi contro di lui. No, ma noi l'abbiamo detto all'inizio, si mette fuori dalla Roma, ma non da giocatore. Io credo anche da quello scenario che abbiamo tutti immaginato di futuro dirigente. Aspetta che è arrivato Luca Telese. Luca, ciao Luca. Presente. Io non so come la pensi tu. Dal Panini Day, dopo un'onda di indignazione, sì, che vuote le coscienze. Sì. Ma come la penso? Ma secondo me siamo matti. Cioè, qua non è calcio, qua è il galateo della vita. Ma non tutti si possono permettere le stesse parole, e non a tutti, anche salvo il principio di uguaglianza, ci si rivolge nello stesso modo. Allora, l'idea che Totti chiuda la sua carriera alla Roma con quello che ha dato alla Roma sbattuto fuori dal ritiro come un, bravo, come un Balotelli di quarta classe, sì, come un 14enne che ha fatto il birichino, credo che sia una piccola infamia. Allora, poi mi dici cosa deve fare un allenatore, questa mattina leggendo sui giornali, ieri sera vedendo al TG1 il suo capitano, per quanto non giocatore, dire quelle cose lì. Poi me lo spiegate, però prego Luca. Sì, un allenatore forse non fa arrivare al livello a cui è arrivato. Quindi è colpa di Spalletti. Allora io te la dico, è un muro contro muro, una delle missioni, siccome non siamo tutti minorenni e non siamo tutti gonzi, una delle missioni dell'arrivo di Spalletti era detossizzare. Forse mettendoci qualcosa del carattere di Certaldino, più che una dotizzazione, è diventato anche un killeraggio. Questo è quello che è accaduto. È stato killerato Totti, nel senso che Totti ha accettato la panchina, non ha avuto problemi con Garcia, non aveva fatto storie. Certo, se per 5 conferenze stampa si parla di Totti come di un cretino, sostanzialmente, di un immaturo, di un peso, e l'allenatore non ha nessun dialogo oltre a queste battute velenose che vengono dette, forse Totti ha anche il diritto di dire non mascalzoni ma rispettatevi. Quindi io, che ero convinto che Totti andasse delpierizzato, dico non viene delpierizzato perché non c'è il coraggio di guardare gli occhi, perché non c'è la società, perché anche la risposta di oggi di Pallotta è surreale, Pier, io non so se l'hai sentita, ce l'ho sentita in contumacia, ma stiamo scherzando? Pallotta non c'è quando si cambia allenatore, Pallotta non c'è quando si tritura Totti nel trita documenti, ma stiamo scherzando? E comunque non la retorica del rispetto delle bandiere, rispetto per gli esseri umani. Totti ha pagato gli stipendi a questa società quando era in crisi, non ce lo dimentichiamo, con le campagne pubblicitarie comprava azioni e metteva denaro contante, quindi non è l'ultimo arrivato. E quindi non è che, non lo so, alla Rai si può prendere a calcio nel sedere Pippo Baudo, no? Luca, io sono d'accordo con te, praticamente su tutto, salvo il fatto che una dichiarazione, cioè che un'intervista come quella di ieri lo mette in fuorigioco, cioè fa peggio a lui che lo fa passare dalla parte del torto. Ma quando è arrivata quell'intervista, il crimine e il misfatto, scusate se cito Woody Allen, se non già celebrato, cioè il crimine è parlare 5 volte di Totti in quel modo senza neanche avergli detto niente, e poi dire improvvisamente ma sì, mettiamolo titolare quando lui è già esploso. Ma Totti non è un ragazzino. Cioè non è che possiamo pensare che, ripeto, avendo accettato, ha giocato solo 2 partite, quindi ha accettato 18 volte la panchina senza fiatare, infortunio a parte. Cioè, quindi che cosa è successo? Perché si è arrivati a questo livello? E forse non c'era bisogno che qualcuno lo guardasse negli occhi? Io credo che a Roma, ma non Spalletti, Luca, non Spalletti, Spalletti. La società, uno qualsiasi della società. E però Spalletti ha la responsabilità di aver accettato oggettivamente di fare il killer. Spalletti ha accettato la responsabilità di portare la Roma al terzo posto e al momento in qualche modo ci sta riuscendo. Io credo che l'allenatore sia responsabile di questo. Il tempismo non è sospetto, nel senso che comunque in questo momento Spalletti ha, vediamola proprio politicamente, in questo momento Spalletti ha la possibilità di detottizzare la Roma, perché in termini di consenso in qualche modo i nostri 2 sondaggi assolutamente spannometrici ce lo confermano, perché in questo momento Spalletti ha un buon credito, la Roma comunque è in ripresa al di là della sconfitta contro il Real, e perché certamente insomma Totti in campo da tanto tempo non dà più segno di sé, non fa la differenza. E di fondo questa teoria io non condivido, perché secondo me è una teoria semplicistica, che Totti in certi momenti abbia condizionato la Roma e quindi abbia fatto fuori altri allenatori, abbia preso delle scelte, insomma, è una teoria che vive a Roma, è una teoria che comunque vive nel pensiero, che comunque c'è, no? Magari una teoria di minoranza, magari una teoria sempre comunque annacquata dall'aspetto, quindi che è una sorta di regolamento dei conti quello di oggi. Pier, aspetta, ti devo fermare perché siamo sul GR e come sai, se no ci tagliano, non il presidente Berlusconi, ma i colleghi del GR. Allora saluto, appunto, Luca Telese. Grazie, ci sentiamo presto. Pier ovviamente resta con noi perché dopo il GR ricominciamo e daremo spazio anche agli ascoltatori. 800 24 00 24, chiamate, prenotatevi. Sa che quando lei non sceglie un allenatore dicono sempre che non lo sceglie perché è comunista. No, sì, questo non c'entra. Mihajlovic mi ha promesso che mi dimostrerà di essere il giusto allenatore per il Milan vincendo tutte le prossime partite. Tutti convocati. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. E poi mi informo anche dai tifosi. Se prendo un taxi, i conducenti dei taxi sono dei grandi esperti di calcio. Adesso parlo anche di politica, intendiamoci, no? Tutti convocati. Chiede ai tassisti cosa deve fare del futuro di Mihajlovic. Quello era Berlusconi, quello vero. 800 24 00 24. C'è Pierluigi Pardo, c'è, sì. Sì, ecco qua. Allora adesso diamo sfogo ai nostri amici che hanno chiamato finto. Beh, l'altro, insomma, quello un po' cialtrone che abbiamo noi in studio. È un Berlusconi finto, no? Lo dico agli amici che dicono: prendete in giro, allora, tutti i presidenti. Sono 24, no, noi. 25, sta contando i trofei del Milan. No, quella è 26, poi è mancata la luce. Ma no. E poi sono. Aspetta. Allora, poi è anche venuta la nebbia. Poi però, 28 e mezzo, perché no, a 28. Istanbul il primo tempo finì 3-0. Ma non si può. Sono, fare ecco, così. Sono 28, quello, 20, quello non vale, 28 tanti, e no, mezzo. No, allora, no, aspetti, no, c'è Massimiliano Dacchieti, è diventato anziano al telefono aspettando. Sì, chiedo scusa, farlo? Però, signori, viene prima Massimiliano Dacchieti o il presidente più vincente nella storia mondiale? Viene prima Massimiliano Dacchieti. Massimiliano. Buonasera a tutti, eccoci. Davasto per l'esattezza. Ecco, Davasto, prego. Sì, io ritengo che il calciatore e la società, parlo di Totti chiaramente, sì, della no, Roma. Ma di sicuro non parlavamo del presidente qui presente, lo sappiamo che la notizia è quella di Totti. Prego, Massimiliano. Ritengo che siano reciprocamente ostaggio l'uno dell'altra. La società ha voluto trattenere questo uomo immagine ben oltre la fisiologica vita di uno sportivo. Il calciatore si è sentito sempre a suo agio a casa sua, ma non si può andare contro natura. Lo sportivo ha un ciclo di vita e, ahimè, anche il tempo di Totti è finito. Avrebbe dovuto ritirarsi un anno prima della sua migliore stagione. C'è chi dice, ad esempio, sul parallelismo con Del Piero, che l'ultimo Del Piero decise in realtà quella stagione con un paio di gol importanti, uno all'Inter e uno alla Lazio, ad esempio, Pier, cioè era un Del Piero che comunque era ancora un calciatore. Sì, ma sai, paradossalmente la storia di Del Piero, che è meno bella, perché insomma, diciamocelo apertamente, Del Piero a un certo punto è stato fatto fuori, ha deciso di andarsene. Almeno per la Juventus ha avuto le palle di fare una scelta impopolare. Fammi finire, cioè fino a una settimana fa avevamo tutti detto che bella comunque la storia d'amore di Totti con la Roma, che diciamo non ha vissuto questo passaggio brutale del distacco come nel caso di Del Piero, anche il distacco polemico, perché non dimentichiamocelo, che invece ha avuto Del Piero con la Juve. Oggi però forse viene da pensare che sia andata meglio così, cioè alla fine se poi questo momento deve arrivare, allora è meglio accorgersene prima, accorgersene in tempo. Questo non c'è nessun dubbio, cioè bisogna arrivare al punto che non sei contento. Io credo che in questa situazione qui chiaramente siamo di fronte a un muro contro muro. Sicuramente Spalletti un po' ha provocato Totti, anche perché Totti fa parte di quel mondo. Totti è stato difeso da Zeman per esempio recentemente, sai che Zeman, Spalletti poi si sono chiariti, però lì c'è stato qualche problema, quindi insomma sono due piccoli, un possibile conflitto che sì, poi è deflagrato in maniera che nessuno ha prevenuto. La cosa che mi fa più effetto sono due le cose che fanno effetto: uno è il fatto che l'intervista si è stata fatta ieri mattina, cioè da Roma Real Madrid. Se Totti avesse letto quelle cose lì mercoledì sera a caldo, al famoso giornalista spagnolo al quale invece gli ha detto ma perché mi vuoi intervistare, io ormai non conto più nulla, allora vabbè, potrebbe essere lo sfogo della serata di fronte a un'umiliazione che secondo me oggettivamente c'è stata, perché non è stato elegante farlo entrare in campo per 3 minuti. E questa è la prima cosa che mi colpisce. perché questo sfogo quindi non avviene a caso. Sì, è stato a freddo, è stato meditato. E la seconda cosa è che a questo tipo di situazione Spalletti risponde con quello che abbiamo visto stamattina. Ma cosa deve fare, Pier? Cioè, io credo che poi un allenatore non abbia una scelta. Quando un giocatore, tra l'altro non uno qualsiasi, ti attacca in quella maniera, perché lo attacca, gli dice che non gli parla in faccia, che merita rispetto, gli dice anche, secondo me è un passaggio forse che trascuriamo, io lo stimo come allenatore e suggerirò alla società di tenerlo in considerazione anche per l'anno prossimo. Ma di che stiamo parlando? Cioè, da che cosa parla Totti? Da giocatore, da ex giocatore, da futuro dirigente? Sì, va bene, ok, può essere considerata un'ingerenza in un campo che non è suo, però rimaniamo alla sostanza di quello che dice. Quello che lui dice è che Spalletti lo stima, quello che lui dice è che Spalletti è un bravo allenatore, quindi sono d'accordo con te che quel passaggio lì è un po' spericolato, no? Perché comunque chiaramente non è che è Totti che deve scegliere chi è l'allenatore della Roma, su questo non ci sono assolutamente dubbi, però insomma sappiamo bene che Totti non è un giocatore normale, e cioè, io non è una cosa che mi sconvolge, non mi fermerei tanto alla evidentemente Spalletti l'ha presa meno bene. Aspetta che c'è Giorgio. Spalletti si è tolto un problema, nel senso che in questo momento vediamo come va stasera, Pier. Vediamo come va stasera, sì, però in questo momento, cioè se doveva arrivare un momento per detottizzare la Roma, e il momento propizio era questo. Sì, ma però Piermi, allora ripeto, ha avuto ragione la Juventus e coraggio la Juventus a fare quello che ha fatto con Del Piero, che io sono perfettamente d'accordo sul fatto che nonostante fosse che le bandiere non valgono, non devono essere portate alla pensione fino a vita natural durante, però lo fa in un altro modo, eventualmente meno elegante, come ha fatto la Juventus, ragazzi, con Del Piero. Mazzarri si scavò la fossa. La storia di Zanetti. Con la storia di Zanetti, certo. Cioè, chi conosce l'ambiente dell'azzurro sa benissimo che tutto gli errori, iniziò quella sera. Sì, o comunque quella sera certamente non gli ha fatto bene quando poi ci stanno a decidere. Poi è ovvio che se fosse stato primo in classifica non sarebbe stato esonerato. Però sicuramente quella sera non ha fatto un grande affare a fare quel tipo di trattamento. No, sono scelte pericolose. E qui Totti si è chiamato fuori lui in pratica. Giorgio da Como, Giorgio. Ciao, buongiorno. Eccoci. Prego. Allora, io non voglio fare il profeta e ci sono già troppi più bravi di me, voglio solo dirvi che io ho seguito il calcio fino agli anni 70, sì, quando il Como era in Serie A, quando c'era ancora Rocco e i suoi fratelli, Herrera, insomma ognuno aveva il suo carattere, no? Perciò gli allenatori e i giocatori devono combaciare, ma la mia cosa che voglio dirvi è questa: sono un grande appassionato di calcio, ma non vado più alle partite per vari motivi e non mi interessa più frequentarli, però vorrei dare una bella cosa. Leggere una mia sillogi che dura 20 secondi dedicata a Totti, al suo allenatore, a sì, tutti quelli dai, che sentiamo la sillogi e poi andiamo in traffico. E anche ai bambini, prego, perché seguono anche loro. Sì, questa a me niente, come al solito. Ci sono anche i fiori rari. Sì. Accarezzare con gli occhi del cuore tutte le cose belle che la vita ti dona e regalare con un sorriso i fiori più rari coltivati con cura nel grande giardino dell'anima. Non credere mai di aver raggiunto il traguardo, la corsa della vita ti aspetta. Sfondi luminosi e terre sconosciute, è lì che ci dobbiamo tuffare. La luce rischiare il tuo cammino, credere fortemente che il mondo è più bello di come appare. Una mano amica ti sarà vicino, amare non è peccato, peccato è non amare. Grazie Giorgio, grazie. Ci sta sotto anche il mucchio selvaggio? Tutti convocati. Convocati. Sì, però scusate, no. Io ero convinto di aver comperato Radio 24 e diventa Radio 30. Non ma diventa Radio 30. Siamo a Radio Maria. Ma non siamo. Ma insomma, mi è sembrato che quello sia stato un discorso era dedicato non so a chi. Comunque vogliamo chiarire che Totti non giocherà nella Roma, magari mai più, però vive l'ottima. Gente, allora facciamo una cosa, chiedo no, scusa. Allora, ci sono Adriano da Roma, Vincenzo da Roma. Aspetta, prima no, di Vincenzo. No, sono più importante io. Questo microfono lo prendiamo, il tuo microfono, caro, sì, com'è sì. Buono? Ma... Sentite, ditemi una cosa, ma chi è quella morettina in regia? No. Claudia Schiattone. È l'autrice. C'è anche allora, Paolo Corleone, allora, prima c'era Roberta Frisani. Sì, ma non me ne frega niente del tecnico. Allora, come hai detto? Schiattone. Claudia, ecco, Schiattone. Sì. Schiattone. È bravissima, assumetela. È Juventina, però siamo su Radio Maria qua. Cioè. No. È Juventina, eh? e Juventina. Allora, bisogna scindere il lato professionale dal lato sportivo. Lato A dal lato B. Lato A e lato B. L'abbiamo già assunta. Così. Allora, Pier, ci sei? Sì. Sì. Sei vivi e lotti con noi pure tu. Vabbè. Vivo e lotto insieme a voi. Adriano da Roma. Adriano. Eccomi qua, buonasera. Prego. Prego. Ciao Carlo. Allora, volevo dire una cosa, io sono Francesco Dotti tutta la vita, ma sì, prescindere dalla mia fede calcistica. Che ti fila Lazio, tifi? Eh? Ti fila Lazio? No, dicevo, a prescindere dalla mia fede calcistica che è romanista, ma parliamo di una persona straordinaria. E voglio farvi una domanda, anche a te come conduttore, perché non hai il diritto di replicare Francesco? Dopotutto, comunque sia, quello che ha fatto, che ha dimostrato, e secondo me ha fatto anche molta felicità di alcuni allenatori, soprattutto di Spalletti, quando è arrivato e approdato a Roma dall'Udinese. Allora io chiedo, perché questo modo di fare nei suoi confronti? Una persona che secondo me non ha mai detto né A né B né C, ha sempre accettato quello che gli si è stato proposto, oggi viene tartassato, secondo me non so in quale maniera, perché in questa maniera, scusate, perché non ha il diritto di dire la sua? Perché passa dalla parte del torto. Perché è un professionista, Adriano, si accettano anche i 5 minuti, però prego Adriano. No, io chiedevo, sì, il contratto da dirigente è una cosa che Pallotta si è trovato, secondo me. Sì, non secondo te, se l'è trovato, è cronaca. Credo che Totti di riconoscenza abbia bisogno di questo contratto da dirigente e quant'altro. Parliamo come un Bruno Conti, che ha fatto la storia anche lui della Roma, si è trovato dentro, sta aiutando molti giovani. Allora presumo che anche Francesco avrebbe fatto la storia, il suo futuro sarebbe stato quello comunque. Però voglio dire, la mancata professionalità da parte di Francesco, perché? Rispondendo a questa cosa, cioè, non riesco a capire questo piccolo passaggio. Perché se tu attacchi così dritto per dritto il tuo allenatore e la tua società, secondo me tu crei al tuo allenatore, alla tua società, alla tua squadra, ai tuoi tifosi un problema, e vedremo, ripeto, stasera come va a finire, e ti metti fuori da un progetto. Questo secondo me è l'errore di Totti, oltre all'errore che comunque lui in questa intervista, poi dopo la sentiremo per integrale, dice anche: io mi sento un giocatore, voglio giocare, e a 40 anni quasi compiuti, io credo che nessuno possa pretendere un posto in squadra, neanche un portiere, figuriamoci un attaccante. Grazie Adriano. Pretende un posto in squadra, chiederlo con questa forza. Vincenzo da Roma, Vincenzo, poi Pier ci fa la sintesi. Vincenzo. Sì. Ciao, buonasera. Eccoci. No, volevo dire, in parte il signore di prima mi ha quasi anticipato, perché ha citato una bandiera della Roma come Conti. Io voglio aggiungere anche un Giannini, un Nela, quando è arrivato il momento, un Rocca, di lontana memoria, visto che ho 67 anni e li ho visti tutti questi giocatori. Totti ha ragione, però è passato dalla parte del Totto con uno scopo fuori luogo. Sì, vero, questo è vero. Pier. Questo è vero. Sono d'accordissimo, è una sintesi perfetta. Cioè, ha commesso un errore umano. Umano che ci può stare, niente di tragico, non è che sei diventato una cattiva persona. Ha reagito invece di ragionare, di contare mille volte, di cercare un punto di equilibrio, magari un chiarimento con l'allenatore, magari nemmeno sapeva che oggi sarebbe sceso in campo, no? Oppure chissà, con la dietrologia massima si può anche pensare che Spalletti abbia detto quella cosa della sua titolarità di oggi proprio perché aveva subodorato che ci sarebbero stati problemi e magari per tamponare possibili polemiche. Ci può stare anche questo. Bah, insomma, sarebbe però, grave. Però sarebbe il dato più interessante è quello di stamattina. Stamattina è successa una cosa, stamattina c'erano due possibilità, che erano chiarirsi o andare allo strappo. E mi pare che si sia scelto di andare allo strappo. Quindi sì, questo... Pier Teresa non ha torto quando dice è stato cacciato dal ritiro come un Balotelli di quarto ordine. Appunto, cioè oggi una situazione normale era che una società che aveva voglia di chiarire, di ricucire questa cosa, faceva una bella stretta di mano, Spalletti chiedeva tra virgolette scusa per la poca eleganza dell'altro giorno, comunque spiegava il punto di vista dell'ingresso in campo di, per 3 minuti e dell'altro certificava giorno. Che a Totti, Roma con Totti bisogna usare un atteggiamento diverso che con un Iago Falchi qualsiasi. Ma io mi ricordo Carlo Ancelotti che mi disse a proposito di una partita che era la finale di Champions League, nella quale poi segnò dopo un minuto della persa Istanbul, o forse quella di Atene, non mi ricordo, insomma, mi disse: ma lo tieni tu fuori Maldini, che non era in un grandissimo momento. Sì, ma si è riproposto, Pier, tu lo sai bene perché eri a Berlino, con Pirlo nelle ore di vigilia di Juve-Barcellona, ad esempio. Ma i giocatori speciali ci sono. Sì, ci per, sono. Però ci sono anche i momenti speciali, e questo è un momento speciale, e Spalletti deve fare risultati. Deve fare risultati. Io Spalletti lo capisco, non ti sto dicendo che Spalletti abbia sbagliato, però ti sto dicendo che il dato veramente rilevante, politico e forse anche preoccupante, o che invece risolverà definitivamente questa storia, è quello che è successo stamattina. Sì, perché stamattina con lo strappo in ambiente finale. Tranquillo, non si strappa, ci si stringe la mano, ci si chiarisce, si fa al limite un comunicato congiunto, oppure stasera si va in zona mista a fine partita con Spalletti e Totti che si stringono la mano e sorridono davanti a tutti e si va avanti. Questa cosa non solo non è successa, ma è successo l'esatto contrario. Quindi questa è la cosa che mi impressiona di più ed è la cosa secondo me più rilevante, che significa secondo me di fondo che Spalletti ha avuto la voglia, la forza in questo momento per provare di farlo fuori, a fare lo strappo, di fare fuori dal punto di vista, che non penso sia un suo sbirbizzo umano, penso che sia una sua necessità tecnica in questo momento di non essere condizionato da un giocatore così grande ma anche così ingombrante. Evidentemente questa roba qui gli può dare un vantaggio, e questo vantaggio però se glielo dà, se l'è preso perché Totti ha sbagliato. Sì, però questa è una cosa che deve fare l'allenatore o la società? No, deve fare la società, non l'allenatore, però questo insomma è il tema su che cos'è la Roma in questo momento. Per far felice il nostro presidente Berlusconi, che abbiamo un ospite che ci aspetta, parliamo anche un po' del Milan. Finalmente sono io. A proposito di picconatori, io ieri non so se abbia fatto un favore al Milan Berlusconi. Non ti sopporto più, davvero! Davvero. Sai che io a un certo punto ero sicuro che Sarri avrebbe preso. Per lungo tempo è stato lui l'allenatore a cui abbiamo guardato con attenzione. Poi si è imposto il nome di Mihajlovic per diverse considerazioni attenenti anche il carattere, la sua esperienza passata di gioco, i buoni risultati della Sampdoria. Mihajlovic mi ha promesso che mi dimostrerà di essere il giusto allenatore per il Milan vincendo tutte le prossime partite. A cominciare dalla prossimissima, quella con Napoli, però. Noi affrontiamo in una situazione per noi molto sfavorevole, perché il Napoli è immeritatamente reduce da due sconfitte esterne. Mihajlovic adesso ci deve convincere i tifosi rossoneri, la società e il sottoscritto, ha un solo modo, deve vincere tutte le partite. Vuol dire che lei non è convintissimo. Da qui alla fine, no, non sono soltanto io, perché io non prendo mai delle decisioni personali, prendo delle decisioni che condivido sempre con tutti. Allora, questo Berlusconi, in una delle mille interviste di questi giorni su Mihajlovic, la risposta oggi di Mihajlovic: condivido tutto quello che dice il presidente, ha sempre ragione, quello che dice non si commenta mai ma si ascolta, ho un contratto a fine anno, se saremo tutti e due contenti di continuare lo faremo, altrimenti dovessi andare via, spero di trovare un'altra squadra perché non voglio restare a casa, neanche mia moglie sarebbe contenta. Oscar Damiani, ciao, buonasera. Buonasera a voi. Oh, io dico la mia: Berlusconi non fa un favore al Milan se piccona tutte le volte che apre bocca Mihajlovic. Tu me la pensi? Bisogna conoscere anche la personalità di Berlusconi, che magari facendo così vuol dare, non so, stimoli ai giocatori e all'allenatore. Anch'io, francamente, sarei un po' più cauto nelle dichiarazioni, perché comunque questo Milan sta facendo bene. E non si può pensare che una squadra che è arrivata a decimo, undicesimo l'anno scorso possa puntare a vincere lo scudetto, comunque andare in Champions quest'anno. Credo che i passi vengano fatti uno alla volta, e quindi Sinisa sta lavorando bene, se finirà quarto, quinto sarà un ottimo campionato, saranno le basi con qualche acquisto mirato per puntare a vincere l'anno prossimo. Sì, perché poi ha dato, pur tra mille difficoltà, Mihajlovic una dignità e una coerenza a questo Milan, diverso forse da quello che aveva in mente Berlusconi. Ad esempio, abbiamo capito che non gli piace come gioca, però questa parola lo ha chiaramente delegittimato. L'errore capitale è delegittimare l'allenatore, no? O confermarlo. Sì, però lo ha fatto anche in passato con grandi allenatori, ha sempre detto la sua. La forza al Milan lo dimostra l'esperienza del passato, che il presidente dice il suo pensiero e gli allenatori fanno quello che ritengono giusto. Non è che ascoltano sempre quello che dice il presidente. Quando, anche se è stato ovviamente un grande presidente, alla Palissiano dire queste cose, no, però quando lui dice che il Milan deve giocare magari con palla a terra, deve tenere palla, deve avere possesso palla superiore all'avversario, lo puoi fare se hai determinati giocatori. Se tu hai Bacca, è vero che ha fatto 13 gol, ma che ogni volta che la palla arriva nell'area avversaria e torna indietro, difficilmente tu avrai il possesso palla. Se hai Mandzukic o se hai Higuain, che sono bravi a far salire la squadra, il possesso palla sarà sicuramente superiore a non quello del Milan. Il Milan è costretto, tra virgolette, a giocare il contropiede. Se gioca negli spazi stretti non andrà da nessuna parte. Pier, a te che impressione ha fatto? A me ha fatto l'impressione che è il solito Berlusconi, che al di là delle battute della mitica imitazione del nostro Andro Mercu è comunque il presidente che ha vinto di più al mondo e che da un po' di anni non vince, che sicuramente qualche volta ha avuto delle dichiarazioni che non hanno fatto bene agli allenatori, che hanno destabilizzato anche l'ambiente, quindi non è che sia perfetto, e sicuramente queste dichiarazioni qui comunque un po' di pressione la creano, ma sono d'accordo con Oscar, cioè alla fine Berlusconi ormai lo si conosce, si sa benissimo che queste dichiarazioni le fa, sono uno stimolo, certamente non semplificano, ma proprio perché si conosce il personaggio, secondo me non fanno neanche questo danno. Insomma, ecco, siamo stati giustamente un'ora a parlare delle dichiarazioni di Totti perché sono inusuali su Spalletti, le dichiarazioni di Berlusconi che dice, che fa capire che Mihajlovic non ha completamente convinto tutti, sono direi abbastanza normali, cioè, se anche non l'aveste detto lo sapevamo già, quindi secondo me non cambia molto. Cioè, brutalizzo, non lo prendiamo quasi più sul serio, nel senso non lo prendiamo quasi più sul serio. Sappiamo che è così, che a fine anno Mihajlovic andrà, ma in questo momento non rappresenta una novità. Sono dichiarazioni istintive di un grande presidente che ha vinto tanto, che spesso ha esternato e che quando non è in completa sintonia, e qui è anche normale che non sia in completa sintonia, perché Mihajlovic non sta facendo quello che sta facendo Sarri a Napoli o a lei alla Juve. Mihajlovic adesso comincia a fare benino, ma insomma è ancora in un, no, è ancora in un sotto esame, ma credo sia normale, sarebbe grave se non fosse sotto esame. Poi certamente qualcuno più diplomatico avrebbe detto, avrebbe fatto finta di niente, certo, avrebbe fatto finta di niente. Ma questo è il carattere di Berlusconi e quindi non è che lo scopriamo oggi. Da questo punto di vista è irrilevante, secondo me, quello che ha detto, perché lo sapevamo già. La verità è che, secondo me, sta nascendo un progetto, ma io l'ho detto da mesi, anche in momenti un po' complicati, sta nascendo, secondo me, qualcosa nel Milan. Non è ancora qualcosa tale da poter caldare i cuori. C'è il grandissimo problema della pressione popolare di una piazza abituata a vincere tantissimo, ma a differenza degli altri anni, quest'anno il Milan ha fatto ha messo dei soldi veri, cosa che prima non c'era. Grazie Pier, abbiamo la pausa. Ciao Pier. Oscar, in 30 secondi, se il Napoli domani sera batte il Milan, secondo te si ritorna a prima, non solo numericamente, a prima dello scontro diretto, ma anche come percentuali, come sensazioni per lo scudetto? Ma difficile, ovviamente l'impegno della Juventus in Champions ha influito sulla partita di Bologna, che non è stata brillante. È vero che anche il Napoli ha l'Europa League, però l'Europa League gli consente di far turnover e di far giocare i giocatori che devono stare in forma magari per il finale di campionato. Invece la Juve, la Champions è primaria, quindi deve giocare al massimo sia in campionato che in Coppa. E questo porta via energie mentali e fisiche, quindi difficile dire, sono lì, sarà una partita che secondo me si deciderà nelle ultime tre partite, insomma, ecco, Napoli può essere leggermente favorito, ecco, perché la lunga rincorsa della Juventus ovviamente qualcosa ha tolto, perché poi dopo arriva un momento che c'è un calo, è umano, non è che puoi vincere 40 qualche segnale si era visto anche prima di Bologna, esatto, nelle ultime partite della Juve. Esatto, ma è normale che sia così. Però ci sono ancora molte partite, quindi se la Juve rimarrà agganciata nel finale di campionato sono abituati a vincere e questo aiuta, quello che magari a Napoli non c'è, però c'è una società forte, un presidente, un allenatore, una squadra unita, il pubblico capisce il momento, capisce i momenti, gli è vicino, quindi sarà una bella lotta e quindi ci guadagna, siamo noi sportivi che vediamo questo bel campionato. Un bel campionato. Grazie Oscar. A voi, buona serata. Grazie Oscar Damiani, torniamo subito. È meglio Mihajlovic allenatore del Milan o Salvini allenatore del centrodestra? E passiamo alla domanda successiva. Tutti con convocati. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. E a tornare a casa e sentire che non sembra 6 anni, sembra 6 giorni, perché siamo sempre stati vicini, è la cosa più bella del calcio, è che è il rapporto umano, è amicizia, ci sono delle cose che rimangono per sempre. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre. E visto l'effetto che ha prodotto, potresti invitare Mourinho anche a Torino? O invitiamo Mourinho, andiamo in ritiro altri 6 giorni, o invitiamo Ronaldo, adesso vediamo quali sono state le 3 cose, quelle che ha portato bene. Vorrei poterti dedicare. Nei suoi piani o desideri un ritorno all'Inter in futuro? No, il mio desiderio è che gli interisti sono felici. Moratti felici, gli interisti felici, io sono felice. Posso tornare un giorno? Perché no? Sono tornato al Chelsea, ho allenato al Chelsea 2 volte, perché non posso tornare all'Inter? Ci sono mare, ci sono colline che voglio rivedere. Pensa che in futuro possa tornare? No, è una cosa di cui proprio non se ne è parlato lontanamente, credo che stia pensando al suo futuro e l'Inter sta cercando altri allenatori, quindi no, di questo proprio non ne abbiamo parlato. Con buona pace degli inglesi, anche se l'Inter sta cercando altri allenatori, è una frase di Moratti che andrebbe contestualizzata, perché messa così sta cercando o non sta cercando? Appunto, non lo so, sta cercando o non sta io cercando. Trovo assolutamente inaccettabile. C'è Massimo Paganini che, vabbè, scusate, cioè è una cosa assurda che si metta davanti anche l'Inter proprio nel momento in cui io festeggio il trentennale da presidente della più titolata, sì, importante, ma come ha sentito, società. Ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato con Oscar Damiani. Non è vero. Massimo Paganini, comunisti, ciao, buonasera, vergogna. Massimo. Ciao, buonasera a voi, Massimo. Buonasera. Ma poi ne parliamo, dopo le 19 comunisti, ne parliamo. Vergogna. Dopo le 19 ne parliamo del trentennale. Aspetta, 19 quando finiamo proprio. Massimo, vai, insomma, passate indenne l'uragano Mourinho. Sai come è contento Mancini? No, capito. Tutto quello che ha detto Mourinho e anche Moratti. Insomma, ma sai come io sarà io contento, ho trovato un po' Mancini. Stucchevole, Massimo, questa cosa che l'arrivo di Mourinho era un autogol, poteva dar fastidio a Mancini, non lo so, tu come la pensi? No, mi sembra che si siano un po' esagerate le cose, no? Enfatizzate un po' troppo. Mancini è un professionista, è abituato a lavorare sotto pressione, è un momento difficile della squadra, ma credo che l'abbia vissuto nel miglior modo possibile, nel senso che comunque Mourinho è parte della storia dell'Inter, perché ha vinto un triplete e di conseguenza rimarrà per sempre nei ricordi degli interisti. Sì, forse è arrivato in un momento in cui la squadra non stava andando benissimo, ma non credo che sia stata assolutamente una cosa premeditata questa, io non credo assolutamente, anzi probabilmente è stata per dare un po' più di forza all'ambiente. È stato superato il momento nel modo giusto, nel modo corretto. Mancini ha preparato bene la gara, secondo me avrebbe dovuto, come dovrebbe fare l'Inter quest'anno non è una squadra spettacolare, è una squadra che deve difendersi con attenzione, con concentrazione, con determinazione e soprattutto fare le cose nel modo giusto sulla fase difensiva, cosa che si era dimenticata di fare nelle 9 partite precedenti a quella di ieri. Di conseguenza io credo che quello sia il lavoro che deve fare l'Inter, che deve fare Mancini con la sua squadra, per poi ripartire e trovare i gol davanti con degli attaccanti, primo tra tutti Icardi, che ha segnato ieri il suo 47esimo gol con la maglia dell'Inter in 95 gare, quindi No, i numeri ci sono, come esatto, è anche vero che la sua stagione è un po' così, tutte queste cose, però Massimo Mancini deve farle in fretta perché la Fiorentina non si ferma più. Proiezione terzo posto ad oggi, siamo a 76 punti. Ora, dando un'occhiata anche al calendario dell'Inter, non basterà salvarsi, fare bene, benino, vincere in qualche modo nelle partite in casa. L'Inter ha un calendario un po' particolare, ha buttato via tanto, a questo punto o fa il blitz fuori oppure sarà difficile. Sicuramente, beh, ha dimostrato nel girone d'andata di essere una delle squadre che fa più punti fuori casa, no? Questo modo di giocare prevede che l'Inter possa partire e andare in ripartenza, diciamo così. Ha preso anche Eder davanti, che è un giocatore che gli può dare tanta qualità, sta facendo fatica in questo momento, però io credo che lui abbia trovato il modulo ideale per giocare con questa squadra, con i giocatori che ha a disposizione. Una volta fatte le scelte, bisogna portare avanti quelle. Secondo me continua a mancare all'Inter qualità, la qualità del centrocampo, insomma, ha girato tutti i giocatori. Non è riuscito a trovare quella qualità che cercava, anche perché con Dogbia ha fatto una stagione, diciamo così, con alti e bassi e non con quella qualità nel rendimento che tutti si aspettavano. Però quella qualità non ci sarà fino alla fine della stagione, evidente, Massimo. Cioè, tutto il mondo è d'accordo nel dire che l'Inter manca qualità a centrocampo, manca il giocatore che tenga in mano la squadra anche dal punto di vista tecnico ed emotivo. Però questo non ci sarà fino all'anno prossimo. No, lo so, difatti dico, questo è quello che ha in mano in questo momento. Il problema sono state queste 9 partite dove purtroppo è stato dilapidato un vantaggio che era un vantaggio importante, no? Perché sono state partite nelle quali purtroppo si sono persi molti punti, soprattutto per delle disattenzioni, perché sono state molte disattenzioni individuali e errori che si sono ripetuti nelle partite con la Fiorentina, con il Milan, nella partita in casa con la Lazio, dove è stato regalato un rigore anche alla fine della partita, in casa con il Sassuolo, dove hanno regalato anche lì, a causa di un errore individuale, un punto. Sono tanti punti questi che avrebbero fatto la differenza in questo momento, perché l'Inter sarebbe ancora lì al pari con la Fiorentina. È chiaro che adesso va a giocarsi una partita importante a Torino, è una partita decisiva dal mio punto di vista per lo stato mentale, non tanto per quello che accadrà sul campo, esatto, ma perché mentalmente l'Inter ha bisogno di uscire da un momento difficile e la partita di ieri sera è stato il primo passo in avanti. Però è chiaro che dovrà confermare a Torino di essere, come si dice, guarita completamente. Anche se ha ragione Mancini a dire che il peggio non è alle spalle. No, va non si può dire dopo una partita come quella di ieri, tra l'altro credo inquietante nei primi 20 minuti. Sì, considerato l'avversario. Esatto. Ha subito molto, se poi teniamo presente che fino al 60esimo né Eder né Icardi avevano fatto una conclusione verso la porta avversaria. Però è chiaro, nel momento in cui ti accorgi che la tua squadra nelle prime 16 partite della stagione subisce 9 gol e nelle ultime 9 ne subisce 13, significa che l'aspetto della fase difensiva, non i difensori, ma la fase difensiva, in quel momento lì veniva fatta male, no? Anche perché era aumentata in termini percentuali proprio quasi del doppio, è aumentata quasi del doppio la percentuale dei tiri fatti all'interno dell'area di rigore. Comunque Massimo, quindi, io credo anche che l'Inter abbia pagato sul piano emotivo il nervosismo di Mancini. In quelle 9 partite si è visto che era un Inter nervosa, era un Mancini molto nervoso. Sappiamo che qualcosa è successo in quello spogliatoio proprio dopo la partita contro la Lazio. Insomma, ci sono stati diversi episodi che hanno manifestato, che hanno esternato il nervosismo di Mancini, che secondo me si è trasmesso anche alla squadra. Non è solo forse una questione tecnico-tattica. Sì, no, quello che è successo all'interno dello spogliatoio purtroppo non c'è dato di saperlo, no? Ci sono state delle discussioni come avvengono in tutti gli spogliatoi, o in qualsiasi ambiente, diciamo così, però stiamo parlando di calcio. Uh-huh. È chiaro che per quello che sta succedendo anche a Roma, il non detto o le situazioni poco chiare che non vengono risolte nel giro di poco tempo possono portare a dei problemi, perché si spostano in là nel tempo, no? È come nascondere veramente la polvere sotto il tappeto. La puoi nascondere sotto il tappeto, poi ad un certo punto ti accorgi che ne hai nascosta così tanta che non puoi più fare a meno di notarlo. Di conseguenza, se c'è stato un non detto o delle situazioni poco chiare, non chiarite immediatamente, si sono protratte nel tempo e hanno creato uno stato d'animo che non ha permesso all'Inter di ottenere dei risultati. Però questo, ripeto, sono congetture che si fanno e dal mio punto di vista devo analizzare semplicemente come lo faccio da opinionista i numeri, no? I numeri dicono che l'Inter purtroppo ha avuto un calo in 9 partite dove ha subito nella fase difensiva, sulla fase difensiva della squadra, perché ripeto, 16 partite 9 gol, 9 partite 13 gol, no, vuol dire tutto, vuol dire proprio l'equilibrio, l'organizzazione, esatto, vuol dire che è stato perso un equilibrio, vuol dire, e lì solo il tecnico analizzando le partite, quello che accade in campo e durante gli allenamenti deve fare delle considerazioni e dire un attimo, probabilmente ci siamo concentrati un po' di più sulla fase offensiva per cercare di segnare un po' di più, anche se i numeri proprio non gli danno da ragione, e abbiamo perso quello che era la concentrazione, la determinazione, la volontà di fare bene la fase difensiva, perché hanno fatto degli errori, perché mi sono riguardato le partite, quelle soprattutto con la Fiorentina e con il Milan, dove hanno ripetuto gli stessi identici errori sempre sul lato sinistro, quindi proprio errori di tattica individuale, di tattica collettiva, perciò significa che c'era qualche cosa, tutti i giocatori del mondo sanno fare la fase difensiva, però delle volte bisogna ricordargli come farla, per cui ci sta che magari preso da altre considerazioni abbia lavorato. Sì, ha inseguito il gioco bello davanti, quello che tutti gli accusavano di non riuscire a fare, e probabilmente per qualche settimana ha perso di vista il resto, del resto abbiamo anche letto delle sedute scarse sulle palle inattive. Grazie Massimo. Ciao Massimo. Grazie a voi. C'è il traffico, grazie Massimo Paganin, torniamo subito. Tutti convocati. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta. Tutti convocati. Moreno da Milano, Moreno. Sì, ciao, buonasera. Eccoci. Io vi ho chiamato perché praticamente ero allo stadio il giorno che ha smesso Del Piero. Sì. Io praticamente ho passato il pomeriggio a convincere i miei amici tifosi della Juve che non gioivano per lo scudetto, perché secondo loro era una tragedia che smettesse Del Piero. Cioè, non capisco come questi, premetto, per me Del Piero è stato il calciatore più forte della storia della Juventus, più forte anche di Platini, perché ci ha regalato 20 anni fantastici, ma a un certo punto bisogna smettere. Io non capisco, ce lo chiedo a voi, il perché di questi campioni fantastici a un certo punto non capiscono loro che bisogna smettere, perché purtroppo... Perché non è facile, è per nessuno, Moreno. Fanno fatica a capirlo. Anche in tanti lavori non è facile. Non è facile anche nelle redazioni, quando arriva il momento che tocca qualcun altro, scrivere prima pagina. Non riescono a capirlo. Anche i grandissimi campioni, in qualunque sport, il momento più difficile è quello di capire quando smettere. E ad esempio uno come Platini... Sai benissimo che poteva andare avanti ancora un paio d'anni, ha deciso di smettere di ballare. È stato intelligente. Prima di poi diventare c'è chi è costretto, come Van Basten, costretto dai guai fisici. Poi c'è chi, adesso parliamo di rugby, è arrivato in fondo e siamo poi al momento in cui cambia la generazione. C'è una nazionale che cambia pelle, c'è un Sei Nazioni che in questo weekend si è preso una settimana di pausa, e però c'è ad esempio anche l'Italia che ha salutato tutta una generazione di grandi rugbisti, grandi per quello che è il nostro movimento, che si fa da parte. Giacomo Bagnasco, ciao! Ciao, buonasera a tutti! Perché è il tema di oggi, il momento di farsi da parte dei grandi campioni. Penso che sia difficile per tutti, penso che in questo momento ci siano poi, non so se questo argomento lo avete già toccato, ci siano anche dei procuratori che insistono molto con i loro clienti perché allunghino un po' la carriera. Sì, ma si può farlo in Cina, in America, dove si vuole. Sì, oppure si può fare come Flavia Pennetta, che io sono arrivata a vincere la cosa più bella che potevo vincere, per favore... fatemi anche fare un'altra vita, però mi sembra che abbia avuto tutti contro quando ha detto così. È il presidente del CONI e persino sì, tuo padre, ma anche perché si è ritirata dal numero 7 del mondo. Giacomo, cosa succede in questa domenica senza rugby in mezzo al torneo del Sei Nazioni? Ma si potrebbero fare alcune riflessioni, intanto però diciamo che tornano abili alcuni giocatori come Ghiraldini fin da subito e Geldenais prossimamente, questo è un bene. E per il resto diciamo che la cosa curiosa e interessante è che dopo 2 giornate e dopo aver evidenziato diversi problemi, soprattutto per la partita con l'Inghilterra, abbiamo un giocatore che è in testa alla classifica dei marcatori, Carlo Canna con 22 punti insieme a Farrell, E l'altra cosa curiosa è che Can è riuscito a fare contro la Francia la cosiddetta full house, cioè è riuscito a segnare in tutte le maniere possibili, meta, trasformazione, drop e calcio piazzato. In 16 anni di Sei Nazioni si erano riusciti due volte Sua Maestà Johnny Wilkinson e una volta a testa due gallesi, Neil Jenkins e James Hook. Ecco, se dobbiamo dare un segnale di incoraggiamento, quindi di non siamo da buttare via. Beh, insomma, alla faccia quei nomi di questo lì, ragazzo col caschetto di 23 anni. Quei nomi lì fanno paura, eh? I nomi accanto ai quali va a sedersi Canna. Sì, fa pensare che certe cose non si possano fare così per caso e non possa essere che una volta un ragazzo fa una cosa così e poi si perde, però molte volte abbiamo avuto fretta, abbiamo pensato di aver trovato ad esempio l'erede di Dominguez, ci siamo dimenticati che nazioni più grandi delle nostre fanno giocare loro giovani, consentono loro di sbagliare e li tengono in squadra e hanno poi il prodotto finito. Speriamo di Dominguez, come diceva George Costa, era un dono di Dio, era qualcosa che era arrivata dal cielo a dare forza a tutto il movimento azzurro, però speriamo che un ragazzo italiano sarebbe ora. In 30 secondi, sabato dove si va? Sabato si gioca in casa con la Scozia e a questo punto diventa la partita vincere per evitare il cucchiaio. Ci sarà una partita in notturna venerdì sera tra Galles e Francia e poi c'è un Inghilterra e Irlanda che potrebbe da un lato lanciare ancora più in alto l'Inghilterra e dall'altro affosserebbe definitivamente i campioni uscenti irlandesi. Grazie Giacomo. Ciao Giacomo, alla prossima. Grazie Giacomo. Grazie. Bagnasco, Sei Nazioni che Radio 24 e Il Sole 24 Ore seguono con particolare interesse. Finito il primo tempo a Frosinone, 0-0 tra Frosinone e Lazio. Ecco, adesso Frosinone, si parla anche di Frosinone. In questo momento è a due punti dalla Samp. Sì, si parla. Allora, abbiamo il GR adesso. Lo speciale sui miei 30 anni va in onda dopo il notiziario delle 19, dove ripercorreremo il mio esaltante cammino. Se vuole possiamo anche mettere l'inno del Faccio Milan. Faccio soprattutto i complimenti di buona volontà. Bene, faccio soprattutto i miei complimenti alla signorina Schiattone, perché è molto coesa ed estremamente positiva. Allora, quindi del contratto parleremo. Noi la ringraziamo Claudio Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Frisani, Paolo Corleoni in redazione. Il nostro Andro Mercu, che ha festeggiato il suo trentennale. Bravissimo Andro Mercu, bravissimo. Assolutamente, anche lui è ingaggiato. Domani dopo il GR delle 14 torna Tutti Convocati. Sì, è ingaggiato purtroppo. E invece noi domenica 17-19, ma ve l'avevamo detto venerdì che avremmo avuto degli ospiti straordinari. Ciao. Odio questo mondo perché è fatto di persone che parlano solo di calcio e se tu gli dici che non gli interessa il calcio, continuano a parlarti di calcio. Quindi sono sempre stupefatto di fronte al tassista, alla persona che incontro per caso, che mi chiede, ah senti, io dico no, non mi interessa. Ah ecco, infatti, e continua a parlare.